Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Attivare i magneti di iniezione. Protone in movimento. Abbiamo l'antimateria. Abbiamo l'antimateria, benvenuti da Luca Tremolada. Quello che avete appena sentito era un estratto, esattamente era l'inizio, i primi minuti del film Angeli e Demoni per la regia di Ron Howard, tratto dal romanzo di Dan Brown, ho detto tutto giusto, ed è, abbiamo scelto questo frammento perché è stato ambientato esattamente al CERN di Ginevra. Qui con me c'è Guido Romeo, ve lo ricordate, giornalista scientifico, scrive su Nova e ci spiega perché è stato ambientato al CERN di Ginevra. È stato ambientato al CERN di Ginevra, più precisamente nell'LHC, il grande acceleratore, anzi il più grande acceleratore mai costruito, che è entrato in funzione l'estate scorsa e poi si è arrestato. È stato ambientato lì perché si produce anche antimateria lì al CERN. Ecco, ma la vera scommessa è un'altra, non è tanto la vera scommessa è un'altra, è quella di trovare il famoso bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio. E a parlarci della particella di Dio abbiamo invitato Fabiola Gianotti, coordinatrice dell'esperimento ATLAS, e adesso sentiamo però, prima di parlare con lei, subito nella scheda chi è Fabiola Gianotti. Il più costoso esperimento scientifico del mondo è nelle sue mani. Lei è Fabiola Gianotti, la giovane fisica italiana che al CERN di Ginevra coordina ATLAS, il più grande rivelatore di particelle mai costruito dall'uomo. ATLAS è oggi uno dei nodi vitali dell'LHC, il mega acceleratore che promette di rivoluzionare la fisica. Pianista diplomata al conservatorio, Gianotti si è formata in fisica all'Università di Milano, prima di arrivare al CERN nel 1987. Ma ci tiene a dire che non è un cervello in fuga, perché l'Italia è uno dei maggiori finanziatori di questo centro di ricerca europeo. Qui, in una caverna sotterranea in grado di contenere un palazzo di 6 piani, insieme ai 3.000 fisici che lavorano ad Atlas, Gianotti va a caccia di particelle elementari, finora inafferrabili. In particolare di quel bosone di Higgs che potrebbe finalmente far quadrare i conti nei modelli della fisica teorica e fruttare un Nobel a tutta la squadra. Il suo sogno nel cassetto è molto più avvincente di un romanzo di Dan Brown. Avvistare, grazie ai rivelatori di Atlas, la materia oscura in grado di spiegare tutta la massa dell'universo, di cui oggi riusciamo a misurare appena il 20%. Rieccoci, ritornati in studio. Parliamo del più costoso esperimento scientifico. 824-0024, promettiamo di rispondere a tutte le domande, al maggior numero di domande sul CERN, e proviamo a capire con Fabiola Gianotti che cos'è la particella di Dio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Fabiola. Buongiorno a tutti. Ecco, che cosa intendiamo per particella di Dio e perché questo sforzo anche finanziario per cercare di catturarla? Ma diciamo innanzitutto che lo sforzo finanziario, tecnologico, intellettuale che è stato impiegato, sì, per l'LHC non è solo volto a cercare il bosone di Higgs, quella che viene un po' impropriamente chiamata particella di Dio, ma per cercare in realtà tutta una serie di nuovi fenomeni, di nuove particelle che possano aiutarci a rispondere a un certo numero di domande bellissime, molto affascinanti, che ancora ci poniamo riguardo alla costituzione intima della materia e alla struttura e all'evoluzione dell'universo. Ecco, non vorrei semplificare, ma qual è la domanda principale? Perché tra le tante domande che ruotano intorno a questo grandissimo acceleratore di particelle, c'è un grande interrogativo a cui si può dare risposta? Ce ne sono tante domande a cui si può dare risposta, le più affascinanti sono appunto capire innanzitutto se esiste il bosone di Higgs, che è una particella molto importante perché ci permette di capire per quale motivo e qual è l'origine delle masse delle altre particelle che esistono. Ricordiamoci, sembrerebbe una questione un po' accademica, lontana dal cittadino e dall'uomo della società, diciamo, di oggi. Della strada. Della strada, sì, tutto sommato. Che importanza ha se il fotone ha massa nulla e il bosone W e Z hanno massa pari a 100 volte la massa del protone? Ecco, questa è una domanda che sembra accademica, però ricordiamoci che se le particelle elementari, come l'elettrone per esempio, non avessero esattamente la massa che hanno, non ci sarebbe la chimica, non ci sarebbero gli elementi stabili, non ci sarebbe nulla. Quindi sono domande molto importanti e molto fondamentali. Ma ce ne sono altre, come è stato annunciato già nella scheda. Noi oggi conosciamo purtroppo soltanto il 5% della costituzione dell'universo, cioè del bilancio energia-materia dell'universo, e sappiamo che c'è un 20% di materia dell'universo che è chiamata materia oscura perché non è formata di particelle che conosciamo, non è formata dei nuclei che conosciamo, degli elementi che conosciamo, ferro, elio, non è fatta di elettroni, non è fatta di fotoni, è fatta di materia che non conosciamo e che si chiama materia oscura. E quindi per me, come si diceva effettivamente nella scheda, la cosa più affascinante sarebbe produrre in un laboratorio sotterraneo nel centro Europa quella particella misteriosa che permetterebbe di spiegare il 20% dell'universo. Sarebbe un trionfo per la fisica, è un'altra dimostrazione che lo studio dell'infinitamente piccolo, cioè delle particelle elementari, ci permette di capire l'infinitamente grande, cioè l'universo. Vediamo se Guido riesce a rendere la materia oscura un po' meno scura, a chiarire, a far luce sulla materia oscura, come no? Ma ecco, una cosa per dare anche un po' l'idea di quello che fate, perché la vostra è la vera grande avventura, che è ben più ambiziosa della fiction. Io ho visto il CERN anche dentro, ho visto l'LHC, ma quello che forse non si coglie che questa è anche una grandissima macchina del tempo, in un certo senso, perché si torna indietro ai primi istanti di quello che era l'universo nel quale viviamo, è giusto? Sì, è vero, perché nelle collisioni fra i fasci di protoni che circolano nell'LHC riusciamo a produrre localmente una quantità di energia che corrisponde all'energia, quindi alla temperatura che l'universo aveva nei primissimi istanti dopo il Big Bang. Attenzione però che una grandissima quantità di energia a livello locale, una grandissima quantità di densità di energia, ma a livello macroscopico, se volessimo dire quant'è l'energia prodotta nella collisione dei fasci di LHC a livello microscopico, in realtà sarebbe sufficiente per schiacciare una mosca, quindi non è una energia grande secondo i nostri canoni macroscopici, è un'energia grandissima a livello microscopico. Ecco, tanto per restare sul pratico e sull'energia, ma anche per fare una domanda, insomma, che è stata tanto nella cronaca, l'LHC ha avuto un inizio che è stato, anzi a livello mediatico, è stato amplificato soprattutto dalla paura dei buchi neri, che poi, come ci avete spiegato e come abbiamo visto, non ci sono stati, e poi ha avuto anche un arresto. Ci può spiegare come adesso riprenderà il lavoro? Abbiamo una data per novembre di ripartenza dell'acceleratore. Andrà tutto bene? È la prima domanda. E la seconda è: ma i livelli di sicurezza, poi al di là della, diciamo, del centro stesso, quali sono? Dunque, il piano è di riprendere a metà novembre, quindi a metà novembre si cominceranno a far circolare i fasci come l'anno scorso. Certo, speriamo che vada tutto bene, ma siamo sicuri perché diciamo che i problemi elettrici che erano stati trovati sono stati trattati e sono stati quindi riparati. La macchina con cui partiamo adesso, l'acceleratore con cui partiamo adesso, è molto più consolidato dal punto di vista della sua operatività, diciamo, e quindi ci attendiamo senz'altro una fine dell'anno molto interessante con le prime collisioni dei fasci, e poi speriamo nel 2010 un anno di con le prime scoperte di fisica affascinanti e interessantissime, appunto, come poter vedere se riusciamo a spiegare la materia oscura e altro. Dottoressa, tra l'altro, diciamo che la partenza, poi il guasto, poi la ripartenza, insomma, è stato tutto avvolto da un giallo. Poi voi siete intervenuti sui giornali, avete chiarito chiarito. Però è un dato di fatto che il CERN attira un po' sospetti, paure. Come si spiega questa strana attenzione, questa ricerca di dietrologia intorno a questa grandissima macchina per la fisica? Ma senz'altro penso da una parte perché c'è un genuino interesse, questo è molto, molto bello, della società, in uno strumento di altissima tecnologia, perché ricordiamoci che c'è moltissima tecnologia dietro l'LHC in tutti i campi, dalla criogenia all'elettronica al trattamento dei dati, e che tra l'altro ha anche impatti, come sappiamo, importanti sulla società. Quindi è uno strumento di altissima tecnologia che è volto a studiare e a rispondere a quesiti di fondamentale importanza, quasi filosofici, diciamo, in un certo senso, e molto affascinanti per tutti, perché domande quali di cosa è fatto l'universo, credo che tutti siano sensibili a questo tipo di domande. Quindi c'è molto interesse da questo punto di vista. D'altra parte c'è un po' di mistero, perché chiaramente essendo un progetto di alta tecnologia e con scopi scientifici molto, molto puntuali e molto importanti, non è accessibile, direttamente capibile da tutti, e quindi quando non si capisce tutti i dettagli di come una macchina funziona, è chiaro che c'è magari un po' di sospetto, però le paure che sono state ventilate sono assolutamente ridicole. Ecco, dottoressa, però i nostri ascoltatori sono anche abbastanza concreti. Abbiamo in linea Ferruccio da Monza. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io mi riallaccio al discorso che stavo sentendo. Innanzitutto complimenti alla dottoressa, perché sapere che c'è un italiano o italiana a capo di questo progetto così affascinante è sicuramente un fiore all'occhiello, io credo. A prescindere da tutto questo, si parla di lato oscuro, si parla di comunque di conoscenza, io sono assolutamente a favore della ricerca in questo senso, ma parlando di lato oscuro non si incappa poi in un qualcosa che di andare a tastare magari un territorio che non si conosce e non se ne conoscono le controindicazioni? È vero del discorso del buco nero ed è vero l'allarmismo creato da Mass Media. Beh, insomma, aspettiamo un attimo, è vero, calma con è vero il discorso del buco nero. Poi da vado avanti. No, è capire se effettivamente è stata valutata una controindicazione. Nel senso, sapremo di più, però cosa ci porterà in definitiva poi in termini insomma, di controindicazione? Ferruccio dice quali sono sostanzialmente, provo a riassumere gli svantaggi. Dunque, allora non ci sono rischi, tutte le paure sono assolutamente ridicole, spiego a Ferruccio perché, e il motivo è che nello spazio che ci circonda intorno a noi i raggi cosmici che provengono da questo dal cosmo, diciamo, sono estremamente energetici, danno luogo in ogni istante a delle collisioni molto più energetiche, molto più intense di quello che mai un acceleratore sulla Terra riuscirà a produrre. Quindi in realtà siamo studiando un territorio nuovo, ma sotto condizioni controllate a livelli di energia e di intensità che sono molto inferiori a quelli che accadono attorno a noi ogni giorno e che non ci hanno, siamo ancora qui. No, non è successo nulla. Non è successo nulla, e come dicevo prima, a livello macroscopico queste energie sono ridicole, sono l'energia che potrebbe avere una mosca che vola. Ecco. Quindi tra l'altro l'LHC è, non dico la punta di un iceberg, ma è sicuramente la stella polare più brillante sul fronte della fisica, però non c'è solo questo grandissimo esperimento, vero Guido? Beh, anzi, in questo momento c'è anche l'acceleratore americano, che è il Tevatron, che sta funzionando, e per adesso i fisici guardano a quello. Anzi, è un momento, diciamo, una stagione molto interessante, credo, per la fisica, perché per un po' di tempo, nei prossimi mesi, il Tevatron americano e l'LHC europeo funzioneranno in contemporanea, e quindi avremo due macchine straordinarie che lavorano in contemporanea nello stesso tempo. Ma è una stagione effettivamente molto speciale per tutta la fisica. Si parla di un momento storico come quello nel quale Einstein scriveva la teoria della relatività, in un certo senso. Ecco, ti fermo perché proprio ricollegandoci ad Einstein e alle equazioni, alla teoria della relatività, abbiamo collegato Giovanni Amelino Camelia. Dico bene, buongiorno. Buongiorno. Sì, ricercatore alla Sapienza di Roma. Anche per lei abbiamo già pronta una scheda. Il prossimo Einstein potrebbe essere un italiano? c'è almeno una possibilità su 6, secondo la rivista americana Discover, che ha indicato il napoletano Giovanni Amelino Camelia come uno dei più brillanti cervelli della fisica contemporanea, a fianco di nomi del calibro di Stephen Hawking. Il cavallo di battaglia di Amelino Camelia, che ha 44 anni e ricercatore presso la Sapienza di Roma, è la sua teoria relatività doppiamente speciale, una teoria relativistica che è l'evoluzione della relatività di Einstein. Dice che per il suo lavoro ci vogliono creatività e testa dura, ma i suoi studi non sono solo teorici. È stato il primo scienziato a proporre modelli semplificati di effetti di gravità quantistica, verificabili sperimentalmente. Finora con i raggi cosmici, ma forse in futuro anche con i dati di LHC. Il vecchio Albert ha i giorni contati. In che senso creatività e testa dura? Ma quello non so dove l'hanno preso nella scheda, però sì, ci credo molto che se si vuole far avanzare delle nuove idee nessuno le accoglie a braccia aperte, quindi la testa dura è necessaria, questo senz'altro è una cosa in cui credo molto. Ecco, tra l'altro la interrompo solo un attimo perché abbiamo in linea Mario da Napoli, buongiorno. Pronto? Buongiorno, sì, buongiorno, senta. Io volevo chiedere alla dottoressa in base a che cosa fa asserisce che scoprendo il neutrone dell'LHC si raggiunge la conoscenza del 20% della materia. Perfetto, la ringraziamo. L'ascoltatore ha un po' confuso il neurone con il bosone di Higgs, però proseguiamo. Il neutrone. Proseguiamo, vero Guido? Proseguiamo, sì, era una domanda un po' confusa, ma credo che ci sia invece una questione con da far chiarire a Milino Camelia, perché parlavamo l'altro giorno e quando si parla con un fisico del calibro di Milino Camelia si ha sempre l'impressione di avere di fronte una persona che ha i piedi, come dire, nel nostro mondo newtoniano in cui c'è la gravità, ci sono le cose che possiamo sentire, ma ha la testa in una dimensione diversa, che è quella quantistica. Ma la domanda per lui è quanto è importante poi questa dimensione quantistica, di meccanica quantistica. È veramente così importante per noi che in fondo non facciamo studi teorici di fisica, non abbiamo aspirazioni di Nobel? Ah, questa è una domanda interessante, anche perché stiamo parlando oggi dell'LHC e della fisica fondamentale di questi giorni. Nella nostra vita quotidiana la fisica fondamentale di un secolo fa c'è arrivata. Lei dice la nostra vita quotidiana è ancora newtoniana, questo è vero solo a un primo livello d'analisi, ma se guardiamo molti degli apparecchi, soprattutto quelli elettronici che ci circondano, persino molte delle macchine che ci curano dei mali più gravi, molte di queste tecnologie sono un'eredità che ci ha lasciato la fisica fondamentale, quella di frontiera, quella che rassomiglia, la cui versione moderna diciamo è l'LHC, quello che facevano un secolo fa negli ultimi decenni si è trasformato in tecnologie che rendono la nostra vita non solo più lunga ma migliore. E è un po' difficile, la domanda è difficile, quindi non è tanto dov'è questa meccanica quantistica, basta che apra qualsiasi apparecchio elettronico in casa e ne trova a bizzeffe. La domanda interessante è dove sarà l'LHC tra 50 anni o 100 anni nelle nostre case, quello che impareremo con questa nuova macchina e con altri esperimenti di fisica fondamentale che sono in preparazione. Senz'altro non ci possiamo aspettare ricadute immediate nella vita quotidiana e senz'altro non possiamo prevederle adesso. Coloro che hanno dato il via a questa rivoluzione elettronica che ci circonda non potevano immaginarla, loro vedevano le leggi fondamentali, ma non potevano immaginare da quei loro primi passi quali tecnologie sarebbero venute. Però la società ha molto in gioco in queste sfide della fisica fondamentale, come almeno la storia dimostra. Poi potrebbe fermarsi questo processo, ma finora ha funzionato meravigliosamente. Nova Lab 24. Bentornati, al microfono Luca Tremolada e Guido Romeo. Siamo in collegamento con Giovanni Amelino Camelia, ricercatore alla Sapienza di Roma, ricercatore di fisica alla Sapienza di Roma, e con Fabiola Gianotti, coordinatrice dell'esperimento ATLAS. Ecco, proprio per lei c'è una domanda da Carlo da Brescia, un SMS. Lui si domanda: non è che questa grande macchina, riferendosi all'LHC, potrà ridursi come è accaduto con i cervelli elettronici e poi PC, cioè non è che questo grande acceleratore potrà diventare qualcosa di uso domestico, diciamo? Beh, è una domanda molto, molto interessante. È chiaro che la tecnologia degli acceleratori ha avuto delle evoluzioni tecnologiche molto, molto spinte negli ultimi anni, e acceleratori più piccoli vengono in realtà già utilizzati al giorno d'oggi in campo medico, per esempio per la terapia dei tumori. E quindi sono quindi acceleratori più piccoli dei nostri, chiaramente. Il nostro, l'LHC, ha una circonferenza di 27 km, mentre questi acceleratori di applicazioni mediche stanno in una stanza. Quindi non possiamo certamente mettere limiti a quello che potrà essere l'evoluzione di questa tecnologia nel futuro, e che questo tipo di macchine possa essere utilizzato poi per applicazioni più quotidiane. C'è anche una domanda per Amelino Camelia. Un ascoltatore si domanda se l'equazione di Einstein, E uguale a MC quadro, resterà ancora alla base delle prossime scoperte, delle prossime indagini. In scienza possiamo solo attenerci a quello che finora si è stabilito, e questa relazione gode di ottima salute. Senz'altro l'intera struttura concettuale della relatività generale soffre di un problema di incompatibilità logica, per certi aspetti, con le leggi della meccanica quantistica che governano proprio gli esperimenti che si faranno all'LHC, e questa incompatibilità porta ad ipotizzare che alcuni aspetti della relatività generale, di cui la relazione E uguale a MC quadro è una particolare manifestazione, potrebbero essere costretti ad adattarsi in un qualche senso alle leggi della meccanica quantistica. Quindi siamo, diciamo, aperti alla possibilità di modifiche di queste leggi, ma diciamo, la scienza di fatto è solo può solo dar conto di quello che è stato quindi finora accettiamo stabilito, e queste leggi godono ottima salute. Quindi accettiamo di poterla rivedere, ma solo in senso teorico. O no? Per adesso sono solo speculazioni a livello teorico. Ecco, invece proviamo a spostare il compasso sulle ricadute, sulle innovazioni, i prodotti che possono nascere dai grandi esperimenti della fisica, con Pietro Zanarini, che oltre ad essere fisico è anche il capo dell'Information Technology del CRS4, il centro di ricerche fondato dal Nobel Carlo Rubbia in Sardegna. Buongiorno. Buongiorno. Sentiamo anche per lei la scheda realizzata da Guido Romeo. Non è James Bond, ma anche lui ha il 00. È Pietro Zanarini, matricola 001 del CRS4, il centro di ricerche fondato dal Nobel Carlo Rubbia alle porte di Cagliari. Fisico prestato all'informatica, per 8 anni ha lavorato al CERN di Ginevra, dove ha visto nascere il web da quello che definisce un brodo primordiale di grandi cervelli. In Sardegna il suo lavoro ha contribuito a creare il primo giornale online d'Italia, l'Unione Sarda Online, e oggi è a capo dell'ICT del centro CRS4. Come internet, anche il CRS4 è uno spin-off della ricerca del CERN. Intorno al centro, che Zanarini ha contribuito a costruire dal nulla, oggi c'è uno dei distretti dell'ICT più promettenti d'Italia. Prova che la ricerca non porta solo particelle, ma anche nuove aziende e lavoro. Ecco, buongiorno professore. Sì, buongiorno. Allora, l'LHC abbiamo visto è, oltre ad essere costato 8 miliardi di euro, è una macchina molto complessa, ci hanno lavorato migliaia di fisici e ingegneri, ma da questi grandissimi esperimenti della fisica possono nascere delle innovazioni che poi arrivano fino a noi, insomma? Assolutamente sì, nel senso che proprio da questi grossi esperimenti che apparentemente sembrano così lontani dalle utilizzazioni comuni, diciamo, sebbene poi probabilmente vi avranno detto i colleghi che mi hanno preceduto, diciamo che comunque ci sono un certo tipo di ricadute sul piano tecnologico, per esempio per fare non so, un certo tipo di materiali più vuoto, più spinto del presente, fare un certo tipo di elettronica, di rivelatori e così via. Ma comunque al di là di questi aspetti così diciamo puramente di avanzamenti della tecnologia c'è quello che voi accennavate prima, il discorso del brodo primordiale, cioè il discorso proprio delle ricadute, nel senso che comunque quando c'è una concentrazione di computer e di persone, di cervelli che li utilizzano, in un modo o nell'altro succedono sempre delle cose anche inaspettate, no? La famosa serendipity. Una delle cose inaspettate, per esempio, che è successa al CERN, come ben tutti sanno, è per esempio questa cosa la nascita del World Wide Web. Questa non era una cosa prevista, però guarda caso è nata al CERN. Non c'è una correlazione uno a uno, però diciamo è molto più alta la probabilità che queste cose nascano. E tutto qua, quindi diciamo assolutamente fare ricerca di base o fare ricerca applicata che apparentemente è lontana come quella che fa il CERN può dare origine come a delle ricadute enormi per tutta l'umanità. Sei convinto, Guido? Sì, è interessante, ma riprendendo anche il discorso, gli accenni che hanno fatto sia Gianotti che Emilino Camelia nella prima parte della trasmissione, sembra che la ricerca sia un po', come dire, un calcolato salto nel buio, nel senso che per esempio l'LHC quando l'hanno concepito, quando i fisici l'hanno concepito, non c'era la tecnologia per realizzarlo, quindi hanno immaginato una cosa che non sapevano costruire, si sono dovuti inventare poi un modo di costruirla e vuol dire che in qualche modo è inutile pianificare, bisogna accettare un certo livello di rischio appunto per creare questo brodo primordiale che diceva Zanarini. Diciamo c'è un insieme delle due cose, nel senso che pianificare va pianificato a grande livello, nel senso che pianificare può voler dire decidiamo di investire in un certo tipo di settori, che può essere il settore dell'aerospaziale, che può essere il settore dell'informatica e così via, quindi una pianificazione implica anche che poi per quello che sono responsabili, le varie nazioni, i vari governi e così via, facciano la loro parte, nel senso che mettono le condizioni per cui possono nascere, diciamo, queste cose, ci siano meno lacciuole possibili, la burocrazia sia minima, ma questa è una pianificazione molto, diciamo, grandi linee. Dopodiché la pianificazione fine è una cosa che io la vedo poco utile, soprattutto quando si parla, come mi sembra di capire, io ho perso la prima parte della trasmissione, ma immagino, diciamo, quello che si può essere detto, diciamo, è quando si parla di questo tipo di innovazioni che sono quelle cosiddette radicali, cioè per le innovazioni radicali che sono quelle a più alto rischio, però quelle che quando una cosa del genere funziona portano i maggiori risultati, effettivamente vanno, come dire, soltanto lasciati lavorare in un certo modo, come dicevo prima, cervelli umani soprattutto aiutati. Quando si uniscono creano cose, lasciano nascere nuove idee. Abbiamo in collegamento Roberto dalla provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Dunque, io mi stavo chiedendo, ho sentito parlare in questi ultimi anni dello sviluppo dei computer quantistici, se queste ricerche che si stanno facendo avranno una ricaduta, comunque un'accelerazione nello sviluppo di questi tipi di computer, di queste nuove tecnologie. Prova a rispondere lei, Zanarini. Diciamo ci sono vari studi che adesso stanno, diciamo, facendo in tutto il mondo per vedere come saranno un pochettino dal punto di vista tecnologico i computer del futuro. Adesso io non sono particolarmente esperto di questo settore dei computer quantistici, ma comunque diciamo sono studi che vanno diciamo come dicevamo prima portati avanti tutti in parallelo, nel senso che è evidente che i computer così come li conosciamo adesso sono abbastanza in una situazione critica, sia per problemi noti di compattazione, di concentrazione, ormai che siamo arrivati ai limiti, e quindi di riscaldamento dei chip e così via. Quindi ci sono vari modi che cercano di superare questa limitazione attuale. Una velocissima cosa che mi viene in mente sul fatto di come evolvono i computer. Io quando sono tornato via dal CERN dopo 10 anni, che ho fatto subito dopo la laurea, quindi nel 1990, quando sono appunto ho iniziato questa avventura del CRS4, la prima macchina che abbiamo comprato era esattamente uguale a quella che usavamo al CERN per studiare le particelle dal punto di vista grafico. Era una Silicon Graphics grossa, la più grossa che c'era al mondo, che costava 1 miliardo di lire equivalenti in Italia, mezzo miliardo il processore e mezzo miliardo, chiamiamola, la scheda grafica. Si è adesso, cambiato qualcosa l'altro giorno, così per curiosità, le caratteristiche sia del processore di calcolo che della scheda grafica sono decisamente inferiori, ovviamente. Accidenti. Questo è un oggetto anche grosso, di un paio di metri, sono comunque decisamente inferiori delle caratteristiche di CPU e di grafica di un telefonino smartphone di 2 o 3 anni fa, un N95 senza far nome. Quindi questo, ecco, per capirti. Ho ancora 2 minuti, volevo però, se riesce, ho ancora 1 minuto, Camelia, riusciamo a dare una risposta rapidissima su un tema complessissimo come il computer quantistico? Ma qui siamo ancora nella zona delle intriganti speculazioni. La fattibilità della computazione quantistica è ancora oggetto di studio. È uno studio su cui c'è un grande sforzo di fisici teorici a livello mondiale, perché alcuni risultati preliminari suggeriscono che se è un qualcosa di fattibile potrebbe essere più potente come strategia di calcolo del computer a struttura classica. Però devo dire, finora io mi tengo prudentemente tra gli scettici, come è necessario fare finché non c'è una vera dimostrazione sul campo che questi Perfetto. Computer quantistici, ma è un soggetto di studio molto attivo che potrebbe dare una svolta anche a breve. Io ringrazio Giovanni Amilino Camelia, Fabiola Gianotti e Pietro Zanarini. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Microtelefonate da 2 minuti gratuite. Presto sarà possibile su Twitter, che attiverà un servizio di brevi tweet vocali tra gli utenti. L'applicazione è stata prodotta dall'accordo con la società di telefonia VoIP Jaya. Per gli amanti dei videogiochi ci sarà inoltre l'applicazione integrata per l'action game Uncharted 2 Among Thieves, capace di twittare automaticamente alla community degli altri partecipanti le loro ultime imprese. Facebook presto potrebbe non essere più alla moda. Per i cultori dell'eleganza sarà infatti disponibile artofthetrench.com, il social network annunciato dalla casa di abbigliamento londinese Burberry, che verrà inaugurato il prossimo mese. Gli iscritti saranno tenuti a inviare foto indossando un trench, il classico impermeabile del marchio inglese. Nasce l'era della social pubblicità? Dopo il fallimento della prima missione del 2005, riparte il progetto CryoSat, satellite ESA destinato ad analizzare le condizioni della calotta polare artica. Il team di scienziati della missione prevede di lanciare il nuovo dispositivo nel febbraio del 2010. CryoSat permetterà di acquisire nuovi preziosi dati sulla fusione del ghiaccio artico, aumentata in modo drammatico negli ultimi 5 anni. La cravatta a che serve? Ad ascoltare musica. È l'idea di Thomas Pink, produttore di camice londinese, che ha lanciato una cravatta dotata di apposita tasca per l'iPod. L'indumento è stato pensato per i pendolari, che hanno spesso problemi di spazio nelle tasche e vogliono evitare di tenere in vista il costoso dispositivo. L'iPod cravatta permetterà di nascondere il lettore e i fili degli auricolari, evitando che il vestito cada male. Bentornati, come avete visto Twitter sta vivendo un momento di grande splendore, entra nei videogiochi, adesso si possono anche fare delle mini telefonate e anche per questo noi abbiamo il nostro Twitter a cui si accede con twitter.com/novalab24 e abbiamo una domanda, un sms di un ascoltatore che giro subito a Guido. Avevo letto su Nova che IBM ha realizzato il primo server quantistico, ma è vero? Ma diciamo che ci stanno lavorando a IBM, cioè, diciamo che IBM è in prima fila per, su questo, IBM come altre aziende, come soprattutto anche molte università stanno lavorando. IBM sicuramente sta facendo uno dei lavori più seri sulla, su questo tipo di nuovi calcolatori. Lavorarci non vuol dire avercela fatta, insomma, poi naturalmente resta da rivedere tutto quello che riguarda il funzionamento sul lungo termine di queste macchine che ancora non esistono. Sì, tra l'altro devono proprio risolvere, ci sono dei passaggi di tecnologia pratica sull'energia, su come condensarla, sulla dissipazione, per cui insomma è ancora una materia abbastanza teorica su cui stanno cominciando le prime applicazioni, prime sperimentazioni, direi. Certo, però è vero che ci si pone da tanti anni il problema della, diciamo, della cosiddetta legge di Moore, cioè del problema dell'aumento di potenza, dell'aumento di capacità, che ormai siamo alla soglia, è quasi al limite, e quindi sicuramente ci sarà un futuro in cui ci avremo il computer quantistico, se non qualche altro tipo di calcolatore. Guido torna martedì con noi qui in studio e che cosa ci racconti? Brevissimo, rapidissimo. Martedì parliamo di città intelligenti, di città che sono piene di sensori e che quindi scoprono, riescono a vedere dove finiscono le cose che le compongono. Diciamo che città che hanno orecchie e occhi. Città che hanno orecchie, occhi, peli, capelli, non ti allargare, pupille. Non ci allarghiamo fin troppo, mentre Nova Lab torna lunedì, sempre alle 4 del pomeriggio, parleremo di applicazioni e programmatori che inventano applicazioni, quindi iPhone, Nokia, sarà interessante perché è un nuovo mercato, un mercato di creatività che sta nascendo. Arrivederci.